Gli speciali di Radio 24. 6 mesi nello spazio. Paolo Nespoli si racconta. Di Gigi Donelli. Gigi, buongiorno, sono Paolo Nespoli da Houston. Disturbo? No Paolo, non disturbi affatto. In realtà potrei dire che era 6 mesi che ti aspettavamo a Radio 24. Come stai? Non c'è male, grazie, non c'è male. Devo dire che questa storia della gravità è molto pesante, devo dire. La gravità è molto pesante. Abbiamo 10 minuti e 10 domande, Paolo. Allora, bentornato e ripartiamo proprio dal momento del ritorno. Siamo a martedì 23 maggio, 7:30 in Italia. Abbiamo visto un proiettile d'acciaio sollevare una nuvola di polvere e terra nella steppa kazaka. Ecco, da dentro come l'avete vissuto? Ma sai, da dentro il rientro sulla navicella Soyuz non è uno scherzo, è un evento piuttosto forte dal punto di vista fisico. Ci sono questi momenti in cui i pezzi della Soyuz si separano, se ancora nello spazio, e si separano i vari pezzi, e sembra che qualcuno con una mazza ti dà delle mazzate sul lato della navicella. In effetti sono questi bulloni pirotecnici che esplodono e staccano le varie parti. E poi si comincia con la discesa, rientro nell'atmosfera, l'accelerazione, siamo arrivati a 4G e mezzo per un paio di minuti, insomma, riuscivo a malapena a respirare, e poi l'apertura del paracadute è uno shock violentissimo che non dura mica 3 secondi, dura 20-30 secondi, in cui sei all'interno di questa cosa e vieni sballottato in continuazione a destra e a sinistra con degli strappi violentissimi. E poi l'impatto sulla terra, devo dire che condivido pienamente la descrizione di un mio collega tedesco, che dice è un incidente stradale tra un tir è un'utilitaria, e tu sei nell'utilitaria. Ecco, voi eravate nell'utilitaria in 3 al rientro da 159 giorni, 7 ore e 17 minuti senza peso. Come senti ora il peso del tuo corpo? Accidenti, è pesante, mi sento di pesare 200-300 kg, mi fanno male tutti i muscoli, mi fanno male i muscoli del collo solo per tenere la testa alta, mi fa male l'osso sacro per stare seduto, mi sembra di aver bevuto un paio di bottiglie di vino, non riesco a camminare dritto, sto a malapena in piedi, insomma ci sarà un po' di lavoro da fare per rimettermi in piedi, e devo anche cambiare un pochettino le prospettive. Ero abituato a svolazzare sopra le cose per andare da un punto all'altro, e qui invece ci devo girare attorno, quindi niente, mi sto riabituando a questa gravità, ma devo dire che i sapori e i colori che ci sono qui, sono uscito questa mattina per andare in una delle nostre cliniche, sono rimasto un attimino al sole, è assolutamente stupendo sentire l'aria sulla faccia e il sole che ti scalda, è molto bello. 159 giorni e un'infinità di notte in una giornata che dura più o meno 90 minuti, si sogna lassù, e che cosa si sogna? Ci sono i sogni che fai a occhi aperti, quando guardando sulla terra cominci a pensare alle varie cose. A me è sempre piaciuto stare quando ne avevo l'opportunità, stare nella cupola o alle varie finestre, guardare di sotto, sognare di andare a vedere questi posti, pensare di essere lì e di godere di queste stupende bellezze che vedevo da lassù. Poi ci sono i sogni che sono quelli che quando dormi, e quelli erano più o meno normali, niente di diverso, anzi ero veramente stanco, lì dormivo poco per il mio modo di dormire, e devo dire che ho sognato poco, ricordo pochissimi sogni, il risveglio era sempre strano perché mi svegliavo in questo sgabuzzino sostanzialmente buio, ed era per me difficile capire l'orientamento, mi sembrava di essere sempre a testa in giù in qualche posizione strana, mi ci voleva un attimo per riuscire a capire dove fossi. Hai mai avvertito il senso di essere prigioniero in questa straordinaria tecnologia che è la Stazione Spaziale Internazionale? Ti sei invece sentito davvero libero in qualche momento? Mi sono sempre sentito libero e mi è sempre piaciuto, non mi sono sentito prigioniero né chiuso mai. Se c'è stato un momento in cui avrei voluto essere da qualche parte, è stato un momento in cui ho appreso che mia madre non si sentiva bene e che probabilmente non ce l'avrebbe fatto aspettare il mio rientro, ma è stato sicuramente un momento pesante, ma non mi sono mai sentito prigioniero, l'ho presa come un posto dove dovevo essere, perché era il mio lavoro e mi stavo anche divertendo e niente, insomma, mi sono sempre trovato a mio agio come se fossi a casa, non mi è mai pesato più di un tot. E che lavoro? Hai parlato di scienza con un teologo che si chiama Papa Benedetto XVI, di ambiente con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una volta si diceva che l'astronauta aveva perso un po' del suo fascino. Beh, se questo è perdere del fascino, direi che qui da Terra siamo molto impressionati. Ma ti ringrazio, devo dire che ho sentito di essere seguito calorosamente un pochettino da tutti, sì, sicuramente al Santo Padre, al Presidente della Repubblica, ma i messaggi che ho visto e che ho ricevuto su Twitter, su Flickr, da tantissime persone, mi hanno sicuramente dato la testimonianza del fatto che quello che stiamo facendo è sicuramente di interesse di moltissima gente, e mi sono sentito vicino, ho sentito tanti vicino a me che mi hanno sostenuto nei momenti difficili, o che mi hanno semplicemente detto bellissime queste foto, vorrei essere lì, e questo sicuramente è bastato sicuramente a farmi sentire diverso e a farmi sentire bene. Parliamo un momento di vita di bordo. Dimitri Kondratiev, Katie Collin, ma anche Roberto Vittori e altri sono stati gli astronauti con cui hai condiviso settimane in orbita. Che tipo di relazioni si creano nello spazio? C'è spazio, scusa il gioco di parole, per l'amicizia? Ma sì, sicuramente, sei sostanzialmente in una nave abbastanza confinata e isolata che vuole, quindi devi dividere assieme i momenti di lavoro, i momenti privati, i momenti, tutti i momenti, insomma. Di solito i russi stavano nella parte russa e noi stavamo nella parte non russa e ci ritrovavamo ogni tanto, di solito almeno una volta alla settimana cercavamo di fare una cena tutti assieme, magari guardando un film, che siamo alternati con film russi, film in inglese invece, e niente, si sono create naturalmente delle piccole amicizie un pochettino più forti, per cui se non so, qualcuno aveva bisogno di qualcosa andava a chiedere a una certa persona questa cosa invece di andare ad un'altra, ma questo è assolutamente normale. Devo dire che alla fine ci siamo trovati tutti molto bene, il lavorare assieme è sicuramente stato interessante e facile, non ho sentito pesantezza in nessuno di questi momenti. Ci siamo anche messi in combutta contro i centri di controllo ogni tanto, quando ci suggerivano le cose strane o ci dicevano di fare le cose in un modo strano, ci guardavamo tra di noi e tiravamo fuori una proposta diversa. È andato bene, da quel punto di vista è andato bene, tutti i rapporti sono sicuramente andati bene. Paolo, l'uomo si dice costruisce la sua casa dove decide di vivere. Dopo 6 mesi nella stazione, pensi che psicologicamente sapremo vivere nello spazio? Penso, è una domanda interessante. Vivere completamente nello spazio dipende, probabilmente se uno nasce lì o si abitua da giovane a essere lì, probabilmente la sente come casa sua. Io penso sempre a quelli che sono nati nei posti più strani, non lo so, in Siberia, in posti dove non ci sono alberi o cose così, e sicuramente per loro quello è il posto migliore della Terra. Per noi è l'Italia, sicuramente l'Italia, ma ci sono altre persone nate in altri posti dove non sentono nessun problema a vivere in questi ambienti per noi ostili, e penso se qualcuno cresca, che se qualcuno cresca nello spazio sicuramente la sentirebbe come casa sua. Per quanto mi riguarda, io in questi 6 mesi la Terra mi è mancata, ma non in modo insopportabile. Mi sono mancati i sapori, gli odori, i colori, ho visto tante cose da lassù, tanti posti che ho voluto, che voglio, vorrei vedere. All'inizio volevo trovare il posto per andare in ferie o per andare a passare qualche tempo, e ne ho trovati così tanti che mi sa che non mi basterà il resto della vita per andare a vederli tutti. Fantastico l'idea di organizzare le vacanze dallo spazio. I nostri sogni e desideri cambiano il mondo, diceva Karl Popper. Di sicuro hanno cambiato il mondo di quel ragazzo che nel 77 lasciava il liceo, entrava nell'esercito con un suo sogno. Ma sì, in effetti sono consapevole del fatto di essere riuscito a realizzare questo sogno impossibile sostanzialmente, e lo dico sempre a tutti che se sono riuscito io a farlo, e non sono né Superman né un genio né niente, sono una persona normale, vuol dire che è possibile. Certo, bisogna crederci, bisogna essere costanti, bisogna lavorare, ma insomma le cose si possono fare se veramente si vogliono. Grazie a Paolo Nespoli, grazie davvero, bentornato a casa. Grazie Gigi, grazie a tutti voi, un abbraccio e ci risentiremo, ci rivedremo presto.